Nord e Sud di Elizabeth Gaskell. Per Elizabeth Gaskell, la venerabile antenata scrittrice inglese ottocentesca di cui la nostra scuola ha già proposto i romanzi Ruth, Lois la strega e Mogli e figlie, i cui link lasciamo in descrizione, ancora una volta si tratta di mettere la penna al servizio della causa femminile. In questo Nord e Sud, l'emancipazione della protagonista Margaret Hale, che finalmente, quasi alla fine del romanzo, riesce a decidere autonomamente di sottrarsi al giogo patriarcale perbenista e vittoriano, è il focus del romanzo. Elizabeth Gaskell fu a tutti gli effetti una protofemminista, biografa di Charlotte Bronte, di cui racconta la difficile esistenza con un padre tiranno, un fratello drogato e irresponsabile e il peso sulle sue giovani spalle delle sorelle minori e dell'anziana domestica. Elizabeth riesce a sviluppare una rara empatia nei confronti delle figure femminili, di cui decide di servirsi per divulgare il suo messaggio di emancipazione. Poche volte ci si trova di fronte a romanzi così marcatamente e consapevolmente genetici come quelli di Elizabeth Gaskell. Nemmeno George Eliot e Virginia Woolf riuscirono a produrre figure femminili che nel corso del romanzo prendano coscienza di sé, della loro posizione sociale, dei limiti che venivano loro imposti e dei diritti che potevano rivendicare per uscire dall'angusto stereotipo di fragili fanciulle. In questo caso, poi, la formazione intellettuale, morale e sociale di Margaret Hale, protagonista di Nord e Sud, è intrinsecamente legata a quella del territorio, inizialmente il Sud rurale e in seguito il Nord industriale. Dunque non solo la formazione di Margaret, ma anche la presa di coscienza sociale riguardo come l'economia industriale stesse alterando completamente i rapporti tra produzione e consumo, tra capitale e forze lavoro, tra chi deteneva le materie prime e chi le sfruttava. È utile ricordare che questo romanzo è del 1855 e il capolavoro dell'economista e filosofa Rosa Luxemburg, L'accumulazione del capitale, è del 1913. Il periodo storico dunque è ricco di fermenti economici e sociopolitici che porteranno una parte dell'intelligenza femminile europea a presagire le catastrofi che sarebbero derivate in termini di spreco e inquinamento dalla massiccia industrializzazione, cosa a cui oggi stiamo effettivamente assistendo, e dall'altra parte alla nascita dei due stereotipi nord e sud, sinonimo di ricchezza e operosità il primo, di arretratezza e indolenza il secondo, che ancora oggi si applicano su scala globale, come scrive Marisa Sestito nella interessante introduzione al volume edito da John March. Scrive Marisa Sestito, nel 1854, mentre la storia di Elizabeth Gaskell si snoda a puntate su Household Words, la rivista di Charles Dickens, prepotente echeggia la voce della contemporaneità segnata dal solco tra nord industriale e sud agricolo, arroccati su modi distinti di concepire la vita, il lavoro, la relazione tra le classi, il rapporto con la natura. E rispetto all'oggi, come non pensare che i luoghi dell'Inghilterra vittoriana scandagliati dal romanzo, dove violenti si scontrano progresso e arretratezza, prosperità e miseria, rechino in sé inimmaginate anticipazioni del tempo a venire e modernamente additino le paurose disuguaglianze tra nord e sud del mondo. Facendo compiere a Margaret Hale il suo viaggio a settentrione, l'autrice Elizabeth Gaskell costringe la protagonista ad affrontare un percorso di conoscenza, a superare gradualmente i pregiudizi dell'origine. Quella che Margaret apprende è soprattutto una nuova etica che la induce progressivamente a rifiutare i capisaldi dell'educazione altoborghese ricevuta in casa della zia, a Londra. Principi e regole che plasmavano figure femminili superficiali, condizionate dalla logica dell'apparire e dell'esibire se stesse in funzione del fare un buon matrimonio. Ed è proprio quel modello che Margaret impara a respingere, attratta da una scala di valori rovesciata, dove a contare è il prestigio costruito sul merito, sulla fatica, sulla forza di ricominciare, sulla solidarietà. La ragazza del Sud diviene una formidabile mediatrice tra settentrione e meridione, addita come possibili forme di armonica convivenza tra paesaggi rurali e urbani, tra padroni di fabbriche e operai, tra uomini e donne. Quanto poi il messaggio gaskelliano si carichi di senso, diviene chiaro di fronte alle pari opportunità che il romanzo mette in atto. Non è solo Margaret Hale, donna orfana e sola, ad apprendere una nuova lingua, ma sono anche gli uomini, maschi dominanti trasversali alle classi, a mettersi in ascolto, a rivedere le proprie parole, come l'industriale che sostituisce il termine universalmente utilizzato per definire gli operai, hands, ovvero mani, con men, ovvero uomini. L'industriale e l'operaio vengono indotti al dialogo, avvicinati dalla mediazione di Margaret e stimolati a esplorare fruttuose forme cooperative di gestione della fabbrica. Lo sforzo della scrittrice, dunque, è quello di riprodurre l'onda d'urto del cambiamento economico, culturale e sociale. E non è sottovalutabile, scrive sempre Marisa Sestito, il coraggio della donna e della scrittrice Elizabeth Gaskell. Lo dimostra in un romanzo come Ruth, in cui sottrae la giovane sedotta e abbandonata allo stereotipo della donna perduta, tanto caro alla letteratura ottocentesca, e la connota come vittima e madre amorevole. La palese denuncia dell'iniquità del codice sociale, sordo alla comprensione nei confronti della donna e disponibile all'accettazione del seduttore, produce reazioni indignate, conducendo al rogo del libro da parte di vari membri della congregazione unitariana e al rifiuto di accoglierlo sui loro scaffali da parte di numerose biblioteche. Un'ulteriore dimostrazione di audacia la offre in, come dicevamo, La vita di Charlotte Bronte, dove si rifiuta di passare sotto silenzio materiali scomodi che ad esempio le permettono di mettere in relazione la rovina di Branwell, il fratello piromane e alcolizzato dell'amica, con la sua presumibile e facilmente identificabile ricca amante. Dunque l'essere donna e scrittrice è tutt'altro che semplice in pieno vittorianesimo, quando la scrittura femminile implica esposizione allo sguardo e sospetti di promiscuità, tant'è vero che la maggior parte delle autrici adotta uno pseudonimo maschile. Elizabeth, come abbiamo detto, fu invitata da Dickens a collaborare con la sua rivista. Riguardo il tema dello scontro tra padroni, operai e agli scioperi, uscì prima il romanzo di Dickens stesso, Tempi difficili, e subito dopo questo Nord e Sud, appunto, di Elizabeth Gaskell. Dopo che il tema era già stato affrontato da quel mostro sacro che Dickens incarnava. Ancora una volta, leggendoli entrambi, si ha la prova di quanto la visione femminina sia, riguardo allo stesso argomento, davvero diversa rispetto a quella mascolina. Più gentile e propositiva, la voce di Elizabeth non si limita ad emettere uno sterile giudizio, bensì cerca una armonizzazione, un accordo tra le forze in gioco. Scrive ancora Marisa Sestito. Vi è una risoluzione dei conflitti su cui si chiuderà il romanzo. Pace ritrovata o trovata per la prima volta tra operaio industriale, tra uomo e donna, tra nord e sud. Lontana anni luce dalla femminilità edulcorata e impotente delle eroine vittoriane, Elizabeth Gaskell merita di occupare una posizione di rilievo per la centralità della figura femminile. Donna Elizabeth scrive di donne e partecipa alla ricerca che altre donne conducono attraverso la scrittura, nei casi più lucidi reclamando dignità e autonomia e sottraendosi alle censure. Quanto a Nord e Sud, intreccia il tema ai due romanzi di Anne Bronte, la più giovane e immeritatamente meno nota delle sorelle Bronte. Sia Agnes Grey di Anna Bronte che Margaret Hale di Elizabeth Gaskell incrinano il caposaldo della cultura patriarcale di cui si nutre il vittorianesimo. Trasgressivamente mettono in discussione la figura del padre, perché, contro tutte le aspettative, questi due padri non proteggono e in entrambi i casi sono le figlie a farsi carico della situazione. Vi è poi un coraggioso omaggio ad Anne Bronte da parte di Elizabeth Gaskell anche al romanzo La signora di Wildfell Hall, nel richiamare alla memoria un romanzo che ha avuto un grande successo di vendite e ha provocato disgusto e riprovazione morale tanto più forti, visto che era una donna ad affrontare apertamente dei temi scabrosi, tanto da indurre Charlotte Bronte a non autorizzare la ristampa del romanzo dopo la morte della giovanissima sorella minore. La Scuola delle Donne è lieta di offrirvi l'audiolettura di Nord e Sud di Elizabeth Gaskell, Joe March edizione, traduzione di Laura Pecoraro. Da Devana, buon ascolto. Nord e Sud. 1. In fretta alle nozze. Edith, disse Margaret con dolcezza. Edith! Ma come Margaret un po' sospettava, Edith si era addormentata. Giaceva raggomitolata sul divano nel salotto interno di Harley Street, molto graziosa in mussola bianca e nastri blu. Semmai Titania avesse indossato una mussolina bianca con i nastri blu e si fosse addormentata su un divano di damasco rosso in un salottino, Edith sarebbe stata scambiata per lei. Margaret fu di nuovo colpita dalla bellezza della cugina. Erano cresciute insieme sin da bambine e da sempre tutti, tranne lei, avevano rimarcato la bellezza di Edith. Eppure Margaret non ci aveva mai pensato che fino a pochi giorni prima, quando la prospettiva di perdere di lì a poco la sua compagna sembrava enfatizzarne ogni dolce qualità e tutto il fascino. Avevano parlato di abiti da sposa e cerimonie nuziali, del capitano Lennox e di quello che lui aveva detto a Edith sulla loro vita futura a Corfù, dove era di stanza il suo reggimento, della difficoltà di mantenere un pianoforte ben accordato, una delle più grosse difficoltà che potevano capitarle nella vita matrimoniale, pensava Edith, e anche di quali abiti le sarebbero serviti per il viaggio in Scozia subito dopo le nozze. Ma il suo bisbiglio si era fatto via via più assonnato e Margaret, dopo una pausa di pochi minuti, si accorse, come aveva immaginato, che nonostante il chiacchiericcio nella stanza accanto, Edith si era raggomitolata in una soffice palla di mussolina, nastri e riccioli di seta, ed era sprofondata nel piacevole sonnellino che segue la cena. Margaret era stata sul punto di raccontare alla cugina le fantasticherie e i progetti che nutriva per la sua vita futura nella canonica di campagna dove vivevano suo padre e sua madre e dove aveva sempre trascorso delle gioiose vacanze estive, benché negli ultimi 10 anni la sua casa fosse stata quella di zia Shaw. Tuttavia, non essendoci nessuno ad ascoltarla, fu costretta a rimuginare in silenzio sui cambiamenti della propria vita, come aveva fatto altre volte. Era una riflessione serena, seppur tinta di malinconia per la separazione dalla premurosa zia e dalla cara cugina per chissà quanto tempo. Mentre pensava al piacevole e importante ruolo di figlia unica nella canonica di Helston, le giunsero all'orecchio stralci di conversazione provenienti dalla stanza accanto. Zia Shaw stava chiacchierando con le 5 o 6 signore ospiti a cena, i cui mariti erano rimasti in sala da pranzo. Erano conoscenze di famiglia, vicini di casa, che la signora Shaw definiva amici, poiché le capitava di cenare con loro più spesso che con altri, e né lei né Edith si facevano scrupoli a passare da casa loro prima di mezzogiorno in caso di bisogno e viceversa. Queste signore e i rispettivi mariti erano state invitate in qualità di amiche a una cena d'addio in onore di Edith, che era in procinto di sposarsi. Edith non aveva gradito molto la cosa, dato che il capitano Lennox sarebbe arrivato col treno in tarda serata. Tuttavia, sebbene fosse una bambina viziata, era troppo incurante e pigra per avere una sua forza di volontà, e una volta scoperto che la madre aveva già ordinato tutte quelle squisitezze di stagione che solitamente si ritengono efficaci contro l'immenso dolore delle cene d'addio, si era rassegnata. Si era accontentata di starsene comodamente seduta sulla sua sedia, giocherellando con il cibo nel piatto con aria seria e assorta. Nel frattempo, tutti intorno a lei si divertivano alle battute del signor Gray, che alle cene della signora Shaw sedeva sempre in fondo al tavolo, e pregavano Edith di suonare qualcosa per loro in salotto. Il signor Gray era stato particolarmente gradevole durante la cena e gli uomini si erano trattenuti al piano di sotto più a lungo del solito. E bene avevano fatto, a giudicare dai frammenti di conversazione che Margaret udì per caso. Ho sofferto troppo io stessa, non che fossi infelice con il povero caro generale, ma la differenza di età è un ostacolo che volevo a tutti i costi risparmiare a Edith. Di sicuro sentivo che la cara bambina si sarebbe sposata presto e non perché fossi sua madre. In effetti dicevo spesso che si sarebbe sicuramente maritata prima dei 19. Fu quasi un'intuizione profetica la mia, quando il capitano Lennox. E qui la voce si smorzò in un sussurro, ma Margaret riuscì facilmente a completare la frase. Nella storia d'amore di Edith tutto era straordinariamente andato liscio come l'olio. La signora Shaw aveva dato spazio al presentimento manifestandolo e aveva addirittura incoraggiato il matrimonio, sebbene gli amici di Edith non lo ritenessero all'altezza di una giovane e bella ereditiera come lei. Ma la signora Shaw sosteneva che la sua unica figlia doveva sposarsi per amore e sospirava con enfasi, come se l'amore non fosse stata la ragione del suo matrimonio con il generale. Alla signora Shaw questo fidanzamento romantico piaceva quasi più che alla figlia. Non che Edith non provasse un amore così intenso e a modo, ma avrebbe sicuramente preferito una bella casa a Belgravia, nella zona residenziale di Londra, a tutte le amenità della vita che il capitano Lennox descriveva a Corfù, le parti che appassionavano Margaret. Mentre ascoltava, erano quelle per cui Edith fingeva di rabbrividire e tremare, un po' per il piacere di lasciarsi persuadere dal premuroso innamorato a superare la sua avversione, un po' perché vivere alla giornata o come gli zingari proprio non le piaceva. Eppure, se si fosse presentato qualcuno con una bella casa, un bel patrimonio e per di più un bel titolo, Edith sarebbe comunque rimasta fedele al capitano Lennox fin tanto che fosse durata l'attrazione. Una volta esaurita, magari si sarebbe preoccupata di nascondere invano un certo rimpianto per il fatto che il capitano Lennox non era riuscito a riunire in sé tutto ciò che si può desiderare. In questo era proprio figlia di sua madre. Lei, dopo aver scelto di sposare il generale Shaw, nutrendo sentimenti non più caldi del rispetto per la reputazione e i suoi affari, si lamentava continuamente, anche se sottovoce, di quanto fosse stato difficile stare con un uomo che non era riuscita ad amare. «Non ho badato a spese per il suo corredo», furono le parole successive che Margaret udì. «Gli scialli indiani più belli che mi aveva regalato il generale, ma che io non indosserò più, li ho dati tutti a lei». «È una ragazza fortunata!» intervenne un'altra voce, che Margaret riconobbe come quella della signora Gibson, doppiamente interessata alla conversazione, poiché una delle sue figlie si era sposata qualche settimana prima. «Helen voleva a tutti i costi uno scialle indiano, ma ho dovuto dirle di no quando ne ho scoperto il prezzo, davvero esorbitante!» «Sarà proprio invidiosa quando sentirà degli scialli indiani di Edith. Di che tipo sono? Di Delhi? Con quei deliziosi bordini?» Margaret sentì di nuovo la voce della zia, che sembrava ora essersi sollevata dalla sua posizione semidistesa e pareva guardare verso il salottino illuminato da una luce fioca. «Edith! Edith!» gridò, cadendo all'indietro, sfinita per lo sforzo. Margaret si fece avanti. «Edith sta dormendo, zia Shaw, c'è qualcosa che posso fare io?» All'udire una tale preoccupante notizia su Edith, tutte le signore esclamarono «Povera bambina!» E il minuscolo cagnolino in braccio alla signora Shaw, come eccitato da quello sfogo di compassione, si mise subito ad abbaiare. «Shh, citta, scricciola, piccola peste, sveglierai la tua padroncina! Volevo soltanto pregare Edith di dire a Newton di portare giù i suoi scialli. Ci potresti andare tu, Margaret, cara?» Margaret salì di sopra nella vecchia camera dei bambini, all'ultimo piano, dove Newton stava preparando alcuni merletti per il matrimonio. Mentre Newton, non senza borbottare tra i denti, andava A spiegare gli scialli che erano già stati esibiti 4 o 5 volte quel giorno, Margaret si guardò attorno nella cameretta, la prima stanza della casa che aveva conosciuto 9 anni prima, quando da bambina di campagna, ribelle e indisciplinata qual era, venne portata a condividere la casa, il gioco e le lezioni con la cugina Edith. Si ricordò dell'atmosfera tetra e buia della cameretta londinese, governata da una Bali rigida e austera, estremamente esigente riguardo alla pulizia delle mani e al buon stato dei vestiti. Ricordò il primo tè lassù, separata dal padre e dalla zia, che pranzavano da qualche parte in fondo a un'interminabile scala, perché o lei era su nel cielo, pensava la bambina, o erano loro a essere giù nelle viscere della terra. A casa, prima di venire a vivere in Harley Street, la sua stanzetta era stata il camerino della madre, e poiché si andava a letto presto nella canonica di campagna, Margaret aveva sempre consumato i pasti con i suoi genitori. Oh, la diciottenne alta e slanciata ben ricordava le lacrime di dolore che la bimbetta di 9 anni aveva versato con impeto sfrenato quella prima notte, nascondendo il viso sotto le coperte. E come la governante le disse di non piangere perché avrebbe disturbato la signorina Edith, e di come il pianto incessante e triste era continuato, anche se più sommesso, finché quella zia bella ed elegante, appena conosciuta, non era salita al piano di sopra con il signor Hale per mostrargli la figlioletta addormentata. Allora la piccola Margaret aveva smesso di singhiozzare e fatto finta di dormire, per paura di rendere infelice il padre con il suo dolore, che non osava mostrare davanti alla zia e che oltretutto pensava fosse sbagliato provare, dopo tutte le speranze, le idee, i progetti fatti a casa, prima di riuscire ad adattare il suo guardaroba a una vita più sfarzosa e prima che il padre riuscisse a lasciare la sua parrocchia per venire a Londra, anche se per pochi giorni. Ora aveva preso ad amare la vecchia cameretta, anche se ormai in disuso, e si guardò attorno con un certo rimpianto, quasi come un gatto di casa, all'idea che 3 giorni dopo avrebbe lasciato per sempre il suo territorio. Ah, Newton, disse, penso che a tutti noi dispiacerà lasciare questa vecchia stanza. A dire il vero, signorina, non a me. I miei occhi non sono più quelli di una volta, e c'è così poca luce qui che per poter vedere quando rammendo i pizzi devo stare vicino alla finestra, dove la corrente è così forte che farebbe morire di freddo chiunque. Beh, suppongo che avrai tanta luce e tanto caldo a Napoli, metti da parte più cose che puoi da rammendare fino ad allora. Grazie, Newton, li posso portare io di sotto, tu sei impegnata. Margaret scese quindi carica di scialli, inebriandosi del loro profumo speziato d'Oriente. La zia le chiese di stare in piedi e di fare da manichino, visto che Edith dormiva ancora. Nessuno ci aveva pensato, ma la figura slanciata e le forme delicate di Margaret, nel vestito di seta nero che indossava in segno di lutto per un qualche lontano parente del padre, facevano risaltare le lunghe, bellissime pieghe di quei favolosi scialli che avrebbero quasi nascosto Edith. Margaret era proprio sotto il lampadario, piuttosto silenziosa e immobile, mentre la zia sistemava le stoffe. Di tanto in tanto, quando la facevano girare, si guardava di sfuggita allo specchio sopra la mensola del caminetto e sorrideva alla sua immagine, la figura familiare in abiti da principessa. Toccava delicatamente gli scialli che le ricadevano attorno, apprezzandone la morbidezza e i colori brillanti. Le piaceva proprio essere vestita di tale splendore. Si divertiva come una bambina, con un velato sorriso compiaciuto sulle labbra. Proprio in quel momento la porta si aprì e il signor Henry Lennox fu improvvisamente annunciato. Alcune signore sussultarono, quasi imbarazzate per quel loro interesse tutto femminile per i vestiti. La signora Shaw porse la mano al nuovo arrivato. Margaret rimase perfettamente immobile, pensando di servire ancora come portascialli, ma allo stesso tempo guardò il signor Lennox con un'espressione allegra e divertita, certa che lui potesse capire il suo sentirsi ridicola nell'essere sorpresa in quella posa. La zia era così assorta nell'interrogare il signor Lennox che non era potuto venire a cena, con domande di ogni sorta sul fratello sposo, sulla sorella damigella d'onore che sarebbe arrivata con il capitano dalla Scozia per l'occasione, e sugli altri membri della famiglia Lennox, che Margaret si accorse di essere ormai inutile come portascialli, e si dedicò all'intrattenimento degli altri ospiti che la zia aveva per il momento dimenticate. Quasi subito, dal salotto sul retro giunse Edith, strizzando e chiudendo gli occhi per la luce più forte, scrollandosi all'indietro i ricci leggermente arruffati, simile in tutto e per tutto alla bella addormentata sottratta di colpo ai suoi sogni. Anche nel sonno aveva istintivamente sentito che valeva la pena svegliarsi per un Lennox e aveva una marea di domande da fare sulla cara Janet, la futura cognata che non aveva ancora visto e per la quale professava così tanto affetto che, se non fosse stato per il suo innato orgoglio, Margaret si sarebbe quasi ingelosita di quella rivale dell'ultima ora. Ritirandosi sempre di più sullo sfondo, quando la zia si unì alla conversazione, Margaret si accorse che Harry Lennox dirigeva lo sguardo verso un posto libero vicino a lei e sapeva benissimo che si sarebbe impossessato di quella sedia non appena Edith l'avesse lasciato dal suo interrogatorio. Dal racconto alquanto confuso che la zia le aveva fatto dei suoi impegni, non credeva che sarebbe arrivato quella sera, fu quasi una sorpresa vederlo e ora la serata sarebbe stata sicuramente gradevole. A entrambi piacevano e non piacevano più o meno le stesse cose. Il volto di Margaret assunse una luminosità spontanea e vivace. Poco dopo si avvicinò. Lei lo accolse con un sorriso che non manifestava alcun segno di timidezza o imbarazzo. Bene. Suppongo che siate immersa negli affari, affari da signore, intendo, ben diversi dai miei che sono veri e propri affari legali. Giocare con gli scialli è un lavoro ben diverso da redigere contratti. Sapevo che vi avrebbe divertito trovarci tutte così impegnate ad ammirare abiti da sera, ma gli scialli indiani sono davvero perfetti nel loro genere. Non ho alcun dubbio che lo siano, anche i loro prezzi sono perfetti, non gli manca nulla. Arrivarono i signori, passando di lì uno alla volta, e il brusio si fece più intenso. Questa è la vostra ultima cena, vero? Non ce ne sono altre prima di giovedì. No, penso che dopo stasera ce ne staremo in pace, cosa che di certo non faccio da molte settimane. Se non altro, quel tipo di riposo di chi se ne sta con le mani in mano, dopo aver terminato tutti i preparativi per un evento che riempie la mente e il cuore. Sarò contenta di avere del tempo per pensare e sono sicura che lo sarà anche Edith. Di lei non sono così sicuro, ma di voi sì. Tutte le volte che vi ho vista ultimamente siete stata risucchiata da un vortice creato da qualcun altro. Eh sì, disse Margaret, piuttosto triste, ricordando l'incessante trambusto che era andato avanti per più di un mese per delle sciocchezze. Mi chiedo se un matrimonio debba sempre essere preceduto da quello che voi chiamate vortice, o se in alcuni casi non ci possa essere prima un periodo di calma e tranquillità. Con la fatina di Cenerentola che ordina il corredo, la colazione di nozze che scrive gli inviti, per esempio, replicò il signor Lennox ridendo. Ma sono tutte necessarie queste preoccupazioni? Chiese Margaret fissandolo dritto negli occhi in cerca di risposta. Provava un'indescrivibile stanchezza per tutti quei preparativi volti a fare una bella figura, tra i quali Edith si era destreggiata con estrema autorevolezza nelle ultime 6 settimane, e desiderava proprio qualcuno che le suggerisse qualche idea garbata e sobria sul matrimonio. Oh, certo, rispose lui mentre il suo tono si faceva più solenne. Ci sono formalità e cerimonie alle quali si deve sottostare non tanto per piacere personale quanto per tappare la bocca al mondo, altrimenti ci sarebbe ben poca soddisfazione nella vita. Ma come organizzereste voi un matrimonio? Beh, non ci ho mai pensato più di tanto. Mi accontenterei di una bella mattina d'estate. Mi piacerebbe andare in chiesa a piedi all'ombra degli alberi e non avere tante damigelle d'onore né la colazione di nozze. Devo ammettere che sono contraria proprio a quelle cose che per l'appunto mi hanno dato più da fare negli ultimi tempi. No, io non credo. Al vostro carattere si adatta molto bene l'idea di una nobile semplicità. A Margaret non piacque molto questo discorso, storse il naso soprattutto al ricordo delle passate occasioni in cui lui aveva cercato di portare la conversazione sul suo carattere e il suo comportamento facendo la parte dell'adulatore e tagliò corto dicendo: «È naturale per me pensare alla chiesa di Helston e di andarci a piedi, piuttosto che a una chiesa di Londra in mezzo a una strada lastricata da raggiungere in carrozza». «Oh, raccontatemi di Helston, non me l'avete mai descritta!» Mi piacerebbe farmi un'idea del posto in cui vivrete quando il 96 di Harley Street sembrerà un luogo sporco e squallido, smorto e muto. Innanzitutto, Helston cos'è? Un paese o una città? Oh, ma soltanto un paesino, non penso neanche di poterlo chiamare paese. C'è la chiesa e vicino, sul prato, alcune case, cottage più che altro, circondate da rose che crescono dappertutto. E che fioriscono tutto l'anno, soprattutto a Natale. Completate bene il quadretto, disse lui. No, replicò Margaret alquanto stizzita, non sto facendo un quadro. Cerco di descrivere Helston per quello che è. Non avreste dovuto permettervi di parlare così. Oh, perdonatemi, rispose lui. È solo che dava più l'impressione del paesino di una fiaba che di un posto reale. E infatti lo è, disse Margaret con una certa foga. Tutti gli altri posti che ho visitato in Inghilterra, ad eccezione della New Forest, hanno un aspetto così severo e cupo. Helston è come il villaggio di una poesia di Tennyson. Ma non tenterò di descrivervelo ancora. Ridereste soltanto di me se vi dicessi cosa penso, com'è realmente. Oh, invece non lo farei, ma vedo che siete decisa a pensarlo. Bene, dunque, ditemi quello che mi piacerebbe ancora di più sapere. Com'è la canonica? Oh, non posso descrivere la mia casa, è casa mia e non posso esprimere il suo fascino a parole. Mi arrendo. Stasera siete piuttosto dura, Margaret. Perché? Replicò lei volgendosi a guardarlo con i suoi grandi occhi dolci. Non me ne sono accorta. Come perché? Io vi ho fatto un'osservazione infelice e voi ora non mi descriverete Helston e non mi racconterete nulla della vostra casa, nonostante vi abbia detto quanto desideri sentire di entrambe le cose, soprattutto della seconda. Ma davvero io non riesco a raccontarvi della mia casa, non la ritengo affatto una cosa di cui parlare, a meno che non la conosciate. Bene, allora. Facendo una breve pausa, lui, raccontatemi quello che fate lì. Qui di mattina leggete o seguite le lezioni o affinate il vostro ingegno in altri modi. Prima di pranzo andate a passeggiare e dopo pranzo in carrozza con vostra zia e avete sempre qualcosa da fare la sera. Ecco, riempite ora la vostra giornata a Helston. Vi sposterete a cavallo, in carrozza o a piedi? A piedi, decisamente. Non abbiamo il cavallo, nemmeno papà ce l'ha. Lui si muove a piedi per tutta la parrocchia. Le passeggiate sono così belle che sarebbe un peccato andare in carrozza, quasi un peccato anche a cavallo. E farete del giardinaggio? Questo, a mio avviso, è un impiego decoroso per una signorina di campagna. Oh, non lo so, temo che non mi piacciano i lavori così faticosi. Feste di tiro con l'arco, picnic, balli dopo le corse, balli dopo la caccia? Oh, no! Disse lei ridendo. Papà non guadagna molto per il suo servizio e anche se potessimo permetterci queste cose, dubito che le farei. Ho capito, non mi racconterete nulla, mi direte soltanto che non intendete fare questa o quella cosa. Penso che prima della fine delle vacanze verrò a farvi visita per vedere di cosa vi occupate realmente. Oh sì, spero che lo farete, così vedrete con i vostri occhi quanto è bella Helston. Ora devo andare. Edith si sta sedendo per suonare e di musica ne so quanto basta per girare le pagine. Inoltre, a zia Shaw non piacerà vederci parlare.